cosa dai, come vivi il tuo presente, che farai, che dirai, che progetti compirai, che sarà, cosa c'è nel futuro avanti a te. Deluderai solo chi non ti vede, non ti sente, non lo sai che si può anche vivere per sempre. Ciò che vuoi, ciò che fai, dare fiato alle speranze, che sarà, cosa c'è nel futuro avanti a te. Parla più di te, mostra ciò che hai, prova a credere che una stella c'è messa lì per te, per ricordarti che soli non sei mai, c'è il mondo intorno a te che brilla sempre di luce propria, di riflesse e luci di un tempo che è solo. E saprai cosa fai, cosa cerchi nella gente, cosa vuoi, cosa dai, come vivi il tuo presente, che farai, che dirai, quello che realizzerai, che sarà, cosa c'è nel futuro avanti a te. Parla più di te, mostra ciò che hai, prova a credere che una stella c'è messa lì per te, per ricordarti che soli non sei mai, c'è il mondo intorno a te che brilla sempre di luce propria, di riflesse e luci di un tempo che è solo tuo, in orbite.